in primo piano. Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Carmelo Lauricella in regia, Daniele Bellasio in studio. In primo piano oggi sui giornali, il giorno più buio di Gaza da tutti i punti di vista. Sia per il numero delle vittime, sia perché è stata colpita la centrale elettrica. E poi la politica, lo dicevamo ieri, nel continuo alternarsi di giorni di schiarite, di giorni di confusione, un po' come il nostro clima, lo dice anche Alessandro Campi sul Messaggero. Oggi un giorno no. Oggi sembra che tutto si rifermi, altro che settimana decisiva, come direbbe Alessandro Milan, che salutiamo. No, oggi per la politica è un giorno in cui si ferma tutto. C'è poi una notizia che riguarda i giornali, appunto si ferma, si fermerà. Dal primo di agosto l'Unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci. Poi il ricordo di Giorgio Gaslini, grande jazzista, il ritratto più bello a mio modo di vedere, quello di Franco Faenz sul giornale. Resta un po' di polemiche, un po' di strascichi sul caso Tavecchio, più che altro si cerca di capire come andare avanti per la Federazione Gioco Calcio, si sfila anche il Sassuolo con una nota della società dall'appoggio alla candidatura di Tavecchio, si fanno i nomi di possibili commissari, il favorito sembrerebbe eventualmente l'attuale vertice del CONI Malagò, spunta anche il nome di Gigi Riva. E poi è la giornata delle interviste, ce ne sono di tutti i tipi e molte. Il presidente della Confcommercio Sangalli sul fisco alla Padania, Diego Della Valle, patron di Toz, su Matteo Renzi e sulla Costituzione con il Fatto Quotidiano, il ministro Marianna Madia sulla riforma della pubblica amministrazione sulla Stampa, come vi dicevo Gigi Riva sul Secolo XIX e perfino, qui il mio cuore un po' si apre, Eric Toir sulla Gazzetta dello Sport, voglio un Inter Mazzarri style, curioso che il nuovo patron dell'Inter non parli del caso Tavecchio e dei vertici della Federazione Gioco Calcio, perlomeno io ho letto attentamente l'intervista due volte e non ho trovato dichiarazioni in tal senso. Questo è un po' il quadro, invece la foto del giorno è la foto di un Matteo Renzi spadaccino, ha ricevuto a Palazzo Chigi le atlete dello scherma e quindi la troverete un po' su tutti i giornali, un Matteo Renzi con una sciabola se non ricordo male, non sono un gran tecnico del campo, ecco. Dunque, dicevamo, essendo una rassegna stampa, partiamo appunto con un giornale che rischia di non esserci più, l'Unità. Il titolo molto grande, la prima pagina molto particolare, hanno ucciso l'Unità, subito sotto al titolo, su tre righe, c'è una vignetta di Sergio Staino. Speravo fossero emendamenti. Invece era proprio l'Unità e c'è Bobo che parla con la bambina e sotto una, come dire, valanga di mattoni, speravo fossero emendamenti, invece era proprio l'Unità. Nel fascione rosso in alto dovrà essere un giornale di sinistra, io propongo come titolo l'Unità puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un significato più generale. Una citazione di Antonio Gramsci. Pagina 2 o 3 ci sono le spiegazioni di quanto sta avvenendo all'Unità, poi tutto il giornale fino a pagina 19 è bianco. Ci sono le pagine, ci sono le testatine degli argomenti delle pagine, ma è tutta bianca la pagina. Il comunicato del CDR, fine della corsa, dopo tre mesi di lotta ci sono riusciti, hanno ucciso l'Unità. I lavoratori sono rimasti soli a difendere una testata storica. Gli azionisti non hanno trovato l'intesa su diversi percorsi che avrebbero comunque salvato il giornale e che i due liquidatori avevano chiesto di approvare. Un fatto di gravità inaudita che mette a rischio la sopravvivenza di una voce libera e autorevole dell'editoria italiana. Oltre che di posti di lavoro in un momento di grave crisi del settore dell'informazione. Con l'augurio che questa situazione in qualche modo si risolva, dicevamo che ieri è stato il giorno più buio di Gaza e quindi aprirei proprio su questo tema che è forse il primo piano dei primi piani oggi. Prima pagina della Stampa, Gaza, pioggia di bombe, oltre 100 civili morti nel giorno più nero, colpita la centrale elettrica, striscia al buio, striscia di Gaza al buio, escalation di attacchi israeliani, si lavora per una tregua. In realtà si lavora da tempo per una tregua. La cronaca, pagina 8 e 9 della Stampa. La cronaca vera e propria, pagina 8, una foto della notte con i raid di Gaza, bombe su Gaza il giorno più nero, oltre 100 morti tra i civili, l'abbiamo visto, missili sulla centrale elettrica. L'Egitto tenta una nuova mediazione. L'inizio dell'articolo dell'inviato a Gaza Maurizio Molinari, oltre 100 palestinesi sono morti a seguito dell'intensificazione degli attacchi israeliani contro Hamas nella striscia di Gaza e l'incendio scaturito nella centrale elettrica ha lasciato al buio gran parte degli oltre 1,7 milioni di abitanti. Torna spesso la parola inferno sui giornali, torna anche nella rubrica di Francesca Paci, sempre sulla Stampa, sempre nella stessa pagina, raccoglie voci di palestinesi di Gaza, voglio andare via da questo inferno. Invece a pagina 9 Maurizio Molinari racconta un po' gli aspetti più psicologici di una guerra che oltre ad avere delle vittime civili ha obiettivi militari precisi, quando per demolire il regime si colpiscono i simboli del potere, dalla distruzione della Mukatà di Arafat nel 2002 ai razzi sulla casa del leader di Hamas. La casa di Ismail Haniyeh trasformata in cumulo di macerie, lo studio televisivo di Al-Aqsa polverizzato e il Ministero delle Finanze ingoiato da una voragine sul terreno. Israele demolisce i simboli del potere di Hamas a Gaza per diffondere nella striscia la convinzione che si tratta di un regime in dissoluzione. Roccaforte dei miliziani, raid israeliani hanno raso al suolo lo studio della TV e il Ministero delle Finanze. A fianco c'è appunto la foto delle macerie con un militante di Hamas che issa due bandiere con appoggiato in terra un ritratto di Ismail Haniyeh, che è appunto il leader di Hamas, sulle macerie della sua casa per attestare la volontà di resistere. C'è la foto, c'è la cartina degli obiettivi strategici. In taglio basso invece un pezzo più come posso dire di costume, di vita delle star, perché il dibattito ovviamente attorno alla vicenda israelo-palestinese è sempre molto vivo, accalorato. Ogni giorno interviene un nome famoso, quei tweet delle star schierate che scatenano la rabbia dei fan. Rihanna per esempio scrive su Twitter: prego per la pace e per la fine del conflitto tra Israele e Palestina, c'è qualche speranza? Bar Raffaeli, modella israeliana, siamo quello che siamo perché i nostri soldati sono stati quello che sono stati, riposino in pace. Questo è il racconto sulla Stampa. L'Avvenire, vediamo come titola: Gaza a ferro e fuoco, l'ultima fiammata si chiede, 100 morti nei raid più duri, ora si parla di tregua. L'editoriale, iniziamo a vedere un po' di opinioni su questo fronte, l'editoriale ha il titolo Lo sguardo non basta, i bimbi uccisi, la giustizia e il futuro. Antonella Mariani, i morti del Medio Oriente scompaiono velocemente, annegati dentro la contabilità quotidiana. Fino a ieri oltre 1200 vittime tra i palestinesi, tra gli israeliani poco meno di 60. Oggi si vedrà, nella striscia di Gaza bombardata, in particolare i fotografi e i videooperatori devono fare in fretta se vogliono documentare ciò che accade e raccontarlo a tutto il mondo. I bambini avvolti nei loro corti sudari bianchi, scoperto solo il volto, vengono calati nelle tombe prima del tramonto. Poche ore e restano a piangerli solo i parenti. Se ne vanno come un soffio. Un attimo prima si spingevano sull'altalena, scrive Antonella Mariani. Un attimo dopo sono sotto terra. L'ultimo bilancio dell'ONU parla di più di 200 bambini palestinesi uccisi. E noi, in Italia, nel nostro fine luglio, piovoso, accompagniamo i piccoli martiri guardando le foto o i video con quella giusta dose di pietà che il caso richiede, ma li archiviamo il più velocemente possibile, quasi nascondendo anche a noi stessi l'orrore di quei sudari, il male nudo ed estremo di quelle morti. Dicevo che la parola inferno ritorna spesso, la prima pagina del manifesto, l'inferno. una foto di una donna con una sorta di tappeto bianco dentro al quale ci sono probabilmente le sue cose. La striscia di Gaza è in macerie, colpita la centrale elettrica, 1.800.000 palestinesi al buio, in un solo giorno 150 le vittime dei bombardamenti israeliani. Luciana Castellina, l'editoriale, il silenzio dei pacifisti, molto duro con i pacifisti, nessuno si muove, dice Luciana Castellina, leader storica del mondo intellettuale di sinistra. Gaza è sola. Si può non essere d'accordo, scrive Luciana Castellina, con la linea politica di Hamas e io lo sono. Ma chi la critica dovrebbe poi spiegare perché allora né Netanyahu né alcuno dei suoi predecessori si sia accordato con l'OLP e anzi abbia sempre insidiato ogni tentativo di intesa tra Hamas e Abu Mazen per mandarla per aria. E però io mi domando, se fossi nata in un campo profughi della Palestina, dopo quasi 70 anni di soprusi, scrive sempre Luciana Castellina, di mortificazioni, di violazioni di diritti umani delle decisioni dell'ONU, dopo decine di accordi regolarmente infranti dall'avanzare dei coloni, a fronte della pretesa di rendere la Palestina tutt'al più un Bantustan, una macchia di leopardo, dove milioni di coloro che vi sono nati non possono tornare, i tanti cui sono state rubate le case, dove avevano per secoli vissuto le loro famiglie. Ecco, dopo tutto questo, che cosa penserei e farei io? Io temo che avrei finito per diventare terrorista, scrive sulla prima pagina del manifesto Luciana Castellina, chiedendo un risveglio del movimento pacifista e addossando, come abbiamo letto, le responsabilità di tutte le rotture dei negoziati finora accadute alla leadership israeliana. Nell'articolo Luciana Castellina cita il Foglio, perché il Foglio invece si muove. Tutti alla veglia questa sera, Roma, Lungotevere, Raffaello Sanzio, dalle 21 alle 24, torce, sedie e testimonianze. Il Foglio, come sapete, è una linea politica decisamente più favorevole alle ragioni della difesa della sicurezza nazionale da parte di Israele. L'editoriale di oggi, però, è concentrato sulle parole. Abbiamo parlato tanto di parole in questo inizio di rassegna stampa. Strage, carneficina, massacro, sterminio, ecatombe, olocausto. Ovunque muoiano per mano violenta esseri umani e tra di essi bambini, è lutto e dolore inestinguibili. Si nascondono nel tempo che passa, ma restano per sempre al nostro fianco. C'è però un problema serio di nomenclatura. I nomi non sono neutrali. Possono essere più che imprecisi, tendenziosi, magari senza neanche saperlo. Propagano ideologia, falsa coscienza. A leggere i giornali italiani nel loro registro medio, la notizia di cui si fa commercio legittimo per milioni di lettori. A guardare immagini, ascoltare corrispondenze televisive, news di ogni orientamento, di tutti gli editori in tutte le lingue. Bene, davanti a tutto questo sfoggio di termini umanitari o sacrificali o variamente apocalittici per raccontare le guerre su cui Israele è costretta per difendersi, da ultima questa di Gaza, uno pensa che sarebbe più serio e più giusto e più responsabile parlare di vittime di guerra. 100 cristiani uccisi in Nigeria è una strage o carneficina? Famiglie colpite, annientate o scacciate dai vari califfi del Medio Oriente? È un olocausto. Il martirio non è primo né secondo in una vicenda tragica umana che non sopporta classifiche, ma è cosa precisa. A Gaza, invece, è in atto dichiarata una guerra al terrorismo su un fazzoletto di terra super popolato, caduto in mano a una banda di predoni terroristi che predicano e cercano di realizzare a colpi di razzi e rapimenti e infrastrutture d'attacco l'annientamento del vicino. Un piccolo paese, certo ricco e tecnologicamente prospero e potente regionalmente, ma un piccolo paese condannato all'autodifesa, alle barriere e ai muri, da un'inimicizia mortale che minaccia di diventare esistenziale in una situazione prenucleare ben segnata dalla furia omicidia dell'Ayatollah Khamenei, espressa ieri con parole dolosamente chiare. Date i nomi veri alle cose. Le vittime di guerra provocano lo sconcerto di sempre e le loro immagini piangono da sole. Ma non sono stragi le conseguenze della guerra, non nel senso umanitario che dà a esse un'informazione profondamente tendenziosa e confusa. Le guerre hanno dei responsabili delle cause, sono fatte in offesa agli altri popoli e agli altri, credo, oppure in difesa del proprio diritto di esistere in pace. C'è una differenza e le parole non possono cancellarla. Manifesto Foglio, due posizioni più distanti non si potevano trovare. Allora, diceva Nanni Moretti che le parole sono importanti in un famoso film. Abbiamo finora usato parole come guerra, inferno, guerriglia, raid. Le ritroviamo. Lascio a voi decidere se in modo appropriato o no, anche sulle prime pagine su alcune prime pagine che si riferiscono alla politica italiana. Doveva essere una settimana importante, diventa una settimana complicata. Il giornale La Battaglia Finale, terrorismo in Senato è il titolo. Guerriglia, gazzarre e minacce. Vendola e i grillini paralizzano la riforma. Giorno nero per Renzi. Di nuovo torna il concetto di giorno nero, ma completamente su un altro piano. Per De Sel e Della Valle. In che senso per De Sel e Della Valle? Articolo a pagina 3 di Laura Cesaretti del giornale. Il primo giorno nero di Renzi, per De Sel e pure Della Valle. Matteo attacca: tengo duro e non mi faccio ricattare da chi pensa solo alla poltrona. Fuoco amico da parte del padron di Toz. La Costituzione non la cambia l'ultimo arrivato. Strategia: la lettera ai senatori ricompatta il partito. In effetti c'è stato, come abbiamo visto ieri, uno scambio di lettere tra Renzi e quello che viene un po' considerato il leader dell'opposizione interna al PD in Parlamento, ovvero l'ex ministro Vannino Chiti. La lettera ai senatori, appunto, ricompatta il partito, recuperati i dissidenti. Indiscrezione acida: qualcuno mormora e gelosia per Marchionne e Del Cana Palazzo Chigi, cattiverie sulle dichiarazioni del patron della Toz. L'inizio dell'articolo di Laura Cesaretti: il PD si ricompatte, Matteo Renzi recupera i dissidenti, ma con gli ostruzionisti di Sel il premier va alla guerra e dai. Senza esitazioni si fa anche riprendere durante l'incontro Palazzo Chigi con i campioni di scherma, mentre impugna una sciabola. Ogni tanto una sciabolata ci vuole, lo incoraggia offrendogli l'arma e il numero 1 di Federscherma Giorgio Scarso. Mima un affondo, ogni riferimento al Senato è casuale, se la ride. E va bene, allora parliamo subito della sciabolata. Ve l'avevamo detto che qui stiamo parlando di guerre, guerriglie in Senato, però la foto del giorno è la sciabolata, la spada, la scherma. Pagina 7 di Libero, dal giornale a Libero. Il graffio, dacci un taglio, è il titolo. La foto, appunto, Matteo Renzi con in mano la sciabola. Matteo Renzi ha incontrato a Palazzo Chigi la nazionale femminile di scherma, che ha vinto il campionato del mondo in Russia. Il premier ha consegnato alle atlete azzurre la medaglia di Palazzo Chigi e in cambio ha ricevuto in dono una sciabola. Per le riforme potrebbe servirle, ha commentato il presidente della Federazione Scherma, Giorgio Scarso. Altro che tagliola sugli emendamenti. Qui si finisce all'arma bianca e ancora metafore di guerra. Metafore di guerra che però sembrano un po' stridere con la situazione, almeno da altri punti di vista. Per esempio, metafore di guerra anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Ci andiamo subito. Vietnam, Senato, Renzi fa il duro ma lo salva il canguro. Ma come, si è passati da metafore di guerra a metafore zootecnologiche, insomma, non saprei come dire. Ma lo salva il canguro. Che cos'è il canguro? Poi vediamo che cosa ha detto Diego Della Valle. Il canguro è una tecnica parlamentare che permette di accorpare gli emendamenti simili, in modo che se un emendamento è bocciato, tutti gli emendamenti simili a quell'emendamento vengono accantonati. E questo ha già fatto in modo di tagliare, leggiamo, vediamo, pagina 2 della Stampa, articolo di Mattia Feltri. Dunque, sto cercando il numero degli emendamenti tagliati, lo troveremo, comunque più di 1000. Dai Russo, fai il canguro, è il titolo, e dopo una giornata di scontri il senatore si mette a saltare. Insulti e urla, cronaca di una delirante seduta parlamentare. Quando poi lo aboliranno, scrive Mattia Feltri, se lo aboliranno, sarà una perdita per il mondo dell'intrattenimento, dove lo si troverà un estroso della portata di Francesco Russo, PD, che porta il titolo di senatore. Imitare il canguro con tanto di saltello rivolto ai 5 Stelle? Ce ne si accorge. E sono le 7:30 di sera, si è seppelliti lì dentro dalla mattina, perché dai banchi offesi si alza il ruggito tragicomico. Fa il canguro. Ecco, dunque, dalle metafore guerresche a questo, e la parte finale dell'articolo di Mattia Feltri. Dunque, Appunto, qua si spiega il canguro, la logica dalla quale ormai si muove il Senato, anzi lungo il quale salta in delirio come il canguro voluto dalla Presidenza quando finalmente si è votato e bocciato l'emendamento di Sel. Grasso ha applicato la norma secondo cui sono caduti altri 1400 emendamenti uguali e molto simili. Il glossario cui si è attinto per manifestare il disappunto è immaginabile. E l'effetto era stato ben descritto in aula da Sandro Bondi, senatore di Forza Italia, ritornato sui banchi dopo il volontario esilio. Se fossi un cittadino che assiste ai nostri lavori, penserei che il paese è allo sfascio e che noi siamo incapaci di tirarlo fuori. Bello il racconto di questa giornata, come è stato definito nel sottotitolo delirante in Senato, di Mattia Feltri sulla Stampa. Dicevamo, il Fatto Quotidiano titola, per quanto riguarda la politica, sempre con una metafora guerresca: Vietnam Senato, Renzi fa il duro ma lo salva il canguro. Però, come vi dicevo all'inizio, è la giornata delle interviste. Per la verità, Diego Della evento pubblico, ieri la presentazione dei lavori conclusi in parte o del tutto, molto avanzati e conclusi a questo punto del restauro del Colosseo, però appunto poi ha parlato anche al Fatto Quotidiano: riformatori da bar, lasciate in pace la carta di Einaudi, appello al Quirinale contro i marpioni ricostituenti. L'intervista poi è a pagina 5, viene chiesto: ma allora anche lei pensa che siamo a rischio deriva autoritaria? Renzi ha smarrito la sua spinta di rinnovamento? Bisogna rimettere la palla al centro. Questo significa occuparsi delle famiglie italiane che hanno più bisogno, significa parlare di sicurezza, di lavoro, di giovani e di cultura. E il governo non lo sta facendo? Chiede Nello Trocchia all'intervistatore. Mi auguro che lo faccia. Il governo c'è da qualche mese. Gli diamo il tempo che serve e a settembre ci ripresenteremo a chiedere nero su bianco quello che è stato fatto. Quindi par di capire che l'agosto deve essere decisivo. Aprire i giornali, questo è il mio di commento ovviamente, aprire i giornali tutti i giorni e leggere intere pagine dove anche noi che siamo più navigati non capiamo niente, mi sembra una roba assurda. Però voglio fare un appello al Presidente della Repubblica. Un appello? Presidente, la Costituzione è stata scritta da persone come Einaudi. Non la facciamo cambiare dall'ultimo arrivato che, seduto in un bar con un gelato in mano, decide cosa fare. Su queste cose bisogna stare molto attenti. E con questa figura, con questa narrazione, abbiamo visto che cosa ha detto del persona che cambia la Costituzione col gelato in mano seduto in un bar. Abbiamo visto che cosa ha detto Diego Della Valle sul concetto di riforma e sul fatto che siamo sempre più o meno al momento decisivo. Sulla prima pagina del Foglio, Stefano Di Michele: l'incredibile trentennale tormento della riforma che mai non arriva, il mondo fuori brucia e noi a prendere sul serio gli emendamenti 6.000, il dibattito alto tra virgolette e la sacralità del Senato, da Bozzi ad Alema a Mineo, poi gli hashtag già visto, che noia, che palle, col punto esclamativo. La politica, questa è la giornata politica. Che fare però nel frattempo per l'economia? Prima pagina del Corriere della Sera, e passiamo dalle riforme istituzionali alle riforme dell'economia, quelle che, questa è la domanda, saranno urgenti di più o di meno? Probabilmente di più. Prima pagina del Corriere della Sera, editoriale di Francesco Giavazzi: il mistero Cottarelli, già, che fine aveva fatto? Un po' quello, no? Era la domanda. Il governo è l'uomo dei tagli. Spiega Giavazzi: burocrazia e sindacati stanno facendo una lotta nascosta alla riorganizzazione della pubblica amministrazione. Attraverso il Parlamento stanno cercando di smontare la riforma proposta dal governo. Sulla mobilità obbligatoria, ad esempio, il testo è stato emendato dalla Camera inserendovi eccezioni per le lavoratrici con figli sotto i 3 anni, per le quali la mobilità diventa facoltativa. Si mantiene così una differenza di trattamento rispetto al settore privato ed è stato inserito l'obbligo di coinvolgere i sindacati nelle procedure di mobilità. Anche le retrocessioni a compiti e stipendi inferiori per gli statali in esubero, che anche qui diversamente dai lavoratori privati hanno il privilegio di mantenere il posto di lavoro, sono state limitate ad un solo gradino su 16 nella scala gerarchica. Delle 8 sedi distaccate dai tribunali amministrativi regionali che il governo vuole sopprimere, ne sono state salvate 5, almeno fino al 2016. E sui tagli alla spesa, dove in molti casi il governo potrebbe procedere senza il consenso del Parlamento, ancora nulla, scrive Giavazzi, che aveva anche lavorato a progetti di piani di spending review e di tagli alla spesa in passato. Dottor Cottarelli, le chiediamo un po' di coraggio. Il suo non è il lavoro di un burocrate. Le è stato chiesto di rientrare da Washington per fare proposte anche controverse. Il presidente del Consiglio si arrabbierà? Niente di male. Se non ha fiducia in lei, meglio saperlo oggi che perdere altro tempo. E se possiamo dare un consiglio al premier Renzi, accorpi l'ufficio di Cottarelli all'autorità presieduta da Cantone, quella appunto che si occupa dell'anticorruzione e che supervisiona in questa fase, su indicazione appunto del governo, grandi opere sparse per l'Italia. Accorpi l'ufficio di Cottarelli, suggerisce Giavazzi, all'autorità presieduta da Cantone. Vedrà che le proposte di tagli alla spesa cominceranno a fioccare. Questo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sulla Padania, dicevo che è giornata di interviste, dopo probabilmente ci ritorniamo su una di queste. Pubblica amministrazione, grazie all'editoriale di Giavazzi, segnaliamo subito l'intervista sulla Stampa al ministro Marianna Madia, proprio sulla pubblica amministrazione. Poi dopo la pausa possiamo parlare di tasse. Marianna Madia: chi vuole restare al lavoro a vita ruba un posto alle nuove generazioni. Il ministro: basta con le consulenze ai dirigenti che sono in pensione. Lobbisti ce ne sono stati tantissimi in azione, non abbiamo mollato. L'intervista della Madia con toni fermi tende a precisare e a smentire in parte quello che era un po' contenuto anche nell'editoriale di Giavazzi. Sostiene il governo: noi non abbiamo arretrato sulla riforma della pubblica amministrazione e soprattutto andremo avanti, dice alla fine una domanda, e poi però chi viene mandato in pensione resta come consulente. Infatti, dice la Madia, per questo ora c'è il divieto assoluto di continuare per i pensionati ad avere lavori nella pubblica amministrazione, al massimo si può restare un anno e a titolo gratuito. Sicura che non riusciranno a trovare una scappatoia? Violerebbe la legge. Sfido le amministrazioni a farlo. Quindi il tono del ministro Madia, che di solito è stato sempre molto molto comprensivo di tutte le istanze sul tappeto, si fa duro, segno che qualche problema su questo processo di riforma c'è, ma il governo e andremo avanti sulla nostra proposta di riforma. Il titolo della Padania: rottamati dal fisco. L'intervista sulla Padania, quella al vertice di Confcommercio. Sangalli: la crisi picchia ancora le nostre imprese. Subito tagliare le tasse. Avevamo detto che avremmo parlato di economia, di fisco. La prima pagina della Padania: rottamati dal fisco, giornale della Lega Nord. Anche Confcommercio rivede le previsioni sul PIL nel 2014 e lancia un appello per ridurre le tasse. Con gli 80 euro in busta paga si è registrata solo una modesta ripresa dei consumi. Nostra intervista al presidente Sangalli. Ecco, andiamo all'intervista. Confcommercio indica la malattia ma anche la cura, abbattere la montagna di tasse, dice Sangalli. Con un livello pari ad oltre il 53% del PIL, il nostro paese detiene il record mondiale di pressione fiscale effettiva sui contribuenti onesti. È evidente quindi che la riforma fiscale sia la priorità delle priorità, perché solo attraverso una certa, graduale, sostenibile riduzione delle tasse si può dare una scossa tangibile alla domanda interna, che per consumi e investimenti vale l'80% del PIL e che può favorire una ripresa più robusta e duratura. Continua Sangalli: deve essere chiaro a tutti che l'attuale livello di pressione fiscale su famiglie e imprese è incompatibile con qualsiasi concreta prospettiva di ripresa. Nel rapporto, spiega sempre Sangalli, del nostro ufficio studi, emerge in maniera inequivocabile la correlazione negativa tra livello delle tasse e crescita economica, e soprattutto che quei paesi che hanno ridotto maggiormente il prelievo fiscale hanno anche registrato i maggiori tassi di crescita. non lo cita, ma c'è da credere che Sangalli, per esempio, si riferisca alla Gran Bretagna, che ha fatto una scelta di riduzione fiscale, soprattutto sul fronte delle aziende. Lo si faccia anche da noi, suggerisce Sangalli, e per fare questo occorre agire su due leve fondamentali. Da un lato ridurre e riqualificare la spesa pubblica, e qui occorre davvero usare il bisturi su quegli 80-100 miliardi di sprechi ritenuti aggredibili sia a livello centrale che periferico. E qui, aggiungo io, torniamo alla richiesta di Giavazzi a Cottarelli di farsi sentire. Dall'altro, continua Sangalli, fare in modo che ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione e all'elusione venga destinato alla riduzione delle tasse. Ecco, parla Sangalli di lotta all'evasione e all'elusione. Se ne è parlato, ne abbiamo parlato anche ieri, raccontando la storia descritta da Federico Fubini su Repubblica di due imprenditori che, pur avendo tentato di salvare ed essendoci riusciti due aziende, avendole rimesso in moto, avendo dato lavoro a nuovi giovani e tutto, si sono viste poi la vita complicata da controlli su presunzioni di elusioni, visto che venivano considerate dall'Agenzia delle Entrate troppo basse, per esempio, alcune spese in termini di comunicazione, oppure troppo alte in altre circostanze. Insomma, il problema dei controlli è un argomento delicato, perché se da una parte l'Italia è un paese con un grosso problema legato all'evasione, dall'altra le nostre imprese sono spesso quelle oneste, soprattutto vessate da controlli e da sanzioni che possono pregiudicarne l'attività. Allora, a pagina 5 del Sole 24 Ore di oggi, lotta alle frodi, non ai piccoli errori. Orlandi, il nuovo vertice, la nuova leader dell'Agenzia delle Entrate, dice: con la dichiarazione precompilata 900.000 richieste di chiarimento in meno. Le linee di azione sono queste: spazio alle semplificazioni, i proventi del contrasto al sommerso devono andare a ridurre le tasse, esattamente quello che diceva prima il presidente di Confcommercio alla Padania. Alta le polemiche: no al legame diretto tra premio incentivante del personale e recupero dell'evasione. Ecco, sì, perché una delle polemiche che c'è in questi giorni è: per forza nei controlli spesso i funzionari delle agenzie delle entrate, comunque il fisco è particolarmente severo sui piccoli errori, perché ci sono forme di incentivo a trovare errori e quindi a beccare in fallo aziende. Ne riparliamo tra breve. Gli obiettivi: l'agenzia non può fare nulla sulla riduzione della pressione fiscale, ma invece può fare molto, dice sempre la Orlandi, lo stiamo prendendo dal Sole 24 Ore, articolo di Marco Mobili, ma molto può ottenere sulla riduzione della tassazione occulta. Ecco, l'analisi è di Marco Mobili, sempre a pagina 5, e il titolo è questo: la promessa di ricostruire il rapporto con i cittadini. Questa sembra proprio, come dire, la tematica principale di questo periodo, ricostruire, e questa è la missione che è stata un po' data a Rossella Orlandi, nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si deve riconoscere al neo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che nella sua prima uscita pubblica ha toccato i tasti giusti, scrive Marco Mobili. Di certo ha posto l'accento su almeno due aspetti dell'attuale sistema fiscale, responsabili di aver compromesso negli ultimi anni il rapporto tra fisco e contribuenti. Da un lato, l'eterno problema dell'incertezza di norme e regole con cui i contribuenti e i loro consulenti devono fare i conti. Modifiche e correzioni dell'ultima ora, spesso a ridosso delle scadenze oppure sul filo di lana della fine dell'anno. È anche per questo che il peso della burocrazia fiscale in termini di maggiori oneri e costi per le imprese è diventato insopportabile. Ora però è la stessa Agenzia delle Entrate a preoccuparsi di bloccare i cambi di regole dell'ultima ora, pena, come ha detto la stessa Orlandi, non essere più in grado di consegnare a domicilio il 730 precompilato. Parentesi mia, promessa appunto fatta dal governo Renzi. Un alleato in più e di peso per tutti i contribuenti che, come un disco rotto, chiedono da anni un fisco semplice oltre che equo. Dall'altro lato, sentir dire dal neo direttore che l'evasore di professione non può stare sullo stesso piano di chi sbaglia la dichiarazione o di chi omette i versamenti per pagare gli stipendi ai dipendenti rappresenta un cambio di indirizzo che non può che essere accolto con favore. Parliamo di fisco, ci facciamo spiegare qualcosa di più di queste tematiche e anche della grande iniziativa di tutto agosto del Sole 24 Ore, Guida Pratica per la Famiglia, da un amico e collega che so vuole salutare un altro amico e collega. Mauro Meazza al telefono. Buongiorno Daniele. Salutiamo prima tutto Alessandro Milan, che è quel debosciato, questo il riferimento. Beh, sì, sì, no, l'aggettivo era quello che poi su Twitter ne discutiamo molto, no, di questo aggettivo. Sul debosciato, sul tema del debosciato. Allora Mauro, sai che abbiamo due self noi, no? Il self serio e il self meno serio. Non ti chiedo dell'intervista di Toir, ti chiedo Orlandi, le dichiarazioni di ieri, le polemiche, gli incentivi a beccare gli errori, ci spieghi un attimo di più? Sì, volentieri. Mi ero più preparato su Toir, però va bene, torniamo allora a Marco Mobili invece. Allora, su questa vicenda degli incentivi c'è un pochino, secondo me, di incomprensione non so quanto voluta. Giustamente il neo direttore dell'agenzia ieri ha detto non c'è un legame diretto tra quanti accertamenti si fanno e quanto poi spetta al funzionario. Siamo d'accordo. Nella stessa giornata però il sottosegretario dell'economia Zanetti ha detto sì, è vero, non c'è un incentivo diretto a livello personale, però in realtà c'è una grossa parte di premio di retribuzione, per dirla un po' malamente, che comunque è collegata ai risultati della lotta all'evasione e quindi indirettamente questo premio ci sarebbe. Ricavo tutto ciò dal resoconto puntuale di Marco Mobili che tu leggevi poco fa. Allora, anche se non c'è un incentivo diretto, è chiaro che l'azienda fisco in qualche modo lega i suoi risultati anche al contrasto all'evasione. Sarebbe strano il contrario, mi viene da chiosare, cioè in qualche modo noi dobbiamo perseguire i comportamenti scorretti. Il problema è quello affrontato e chiarito molto bene anche ieri dal mio direttore Orlandi, cioè dobbiamo distinguere tra il peccato veniale, come dire, o la svista, o invece il comportamento doloso, reiterato e reiteratamente doloso. Tra l'altro proprio oggi con Sole 24 Ore diamo un inserto in 16 pagine che racconta come si correggono le dichiarazioni, perché si può anche sbagliare con il fisco. Errare è umano, anche per il fisco. Anche il fisco sbaglia e anche il contribuente può sbagliare. Allora, se riusciamo a distinguere l'errore dall'errore, ripeto, veniale, la svista banale, dal comportamento invece doloso, beh, forse miglioriamo davvero questo famoso rapporto tra fisco e contribuente. Ripeto, 16 pagine oggi per spiegare che la dichiarazione si può pure correggere. Tra l'altro c'è stata una recente apertura interpretativa che in qualche modo ci dà un po' più di margine, per cui uno se è sbagliato, va bene, può rimediare, e questo con una, diciamo, con sanzioni abbastanza ridotte. Mauro, però volevo chiederti una cosa: estate è tempo di viaggi, no? Ti piace come apertura, no? Ecco, allora volevo dirti però, così, guarda, mi leggo da solo, mi avviso da solo in un discorso da cui non uscirò mai più. Ecco. Nella stessa pagina della Sole 24 Ore di cui riferiamo, del direttore Orlandi, riferiamo anche che è in vista l'accordo Italia-Svizzera sul fisco. Questo è un accordo molto importante perché si attende proprio in termini di lotta di contrasto all'evasione, all'esportazione illecita dei capitali, si attende molto da questo accordo. Ieri c'è stato un incontro, lo riferisce Alessandro Galimberti, tra il Presidente della Confederazione e il Presidente del Consiglio e anche il Ministro degli Esteri Mogherini. Tutto questo per andare a parlare di viaggi, quindi parliamo di Svizzera, parliamo di estero, addirittura extra UE, e oggi seconda uscita della guida pratica per la famiglia del Sole 24 Ore, dedicata da una parte ai viaggi, dall'altra alle valute, cioè due termini sostanzialmente adatti al periodo, valute tra l'altro, valute svizzera. Ecco, hai visto che ho fatto anche un collegamento, mio modesto giudizio, quasi brillante, insomma, spero di essermela cavata. Ma io direi molto brillante. Ricordiamo appunto questa grande iniziativa del Sole 24 Ore, la guida pratica per la famiglia, tutto agosto, appunto informazioni pratiche per ripartire in settembre con qualche conoscenza in più per avere la vita più facile. Io però ti volevo raccontare in chiusura, prima della parola magica, ma tu lo sai che Wikipedia è costretta a bandire i deputati degli Stati Uniti. Siccome abbiamo un po' preso in giro la giornata parlamentare di ieri in Italia, scrivono sul sito troppe bufale. Cioè, sai che tu vai su Wikipedia e scrivi quello che vuoi, no? Per esempio, l'articolo di Anna Lombardi su Repubblica, pagina 30, l'ex segretario alla difesa americano Donald Rumsfeld, una lucertola aliena che si nutre di bimbi messicani. Cioè, quindi hanno dovuto schermare i siti perché la gente dal congresso, immaginiamo, forse non proprio i senatori, forse non proprio... Che ne dici, Mauro? Ma guarda, io trovo che, come dire, l'abitudine alla bufala su internet sia abbastanza consolidata oramai. Credo che dopo un po' di anni di rete dovremmo averci fatto un po' tutti il callo. Poi naturalmente ci sarà pure l'effetto di millanteria, perché io mi immagino anche qualche curriculum, come dire, orientato in senso diverso, oltre che a... Assolutamente. Andiamo a scrivere il nostro. Intanto ringraziamo Carmelo Lauricella in regia e io, Daniele Bellasio, vi do appuntamento a domani. Mauro, a questo punto direi io corro a scrivere la mia, la tua biografia e anche quella di Alessandro Milan, che probabilmente ci sarà già su Wikipedia, e tu invece dici la parola magica. Ah sì, subito. Signore e signori, Giornale Radio.